La nuova TV che state per lanciare, che in parte ha già iniziato le proprie trasmissioni, si chiama C6 TV, o detto meglio, così già capiamo che questa TV ha a che fare con internet, C6.tv. È una TV su internet, ma vogliamo capire qualche cosa di più. È una TV pensata e progettata come? Come hai detto tu, è una TV che adesso è fruibile su internet e realizzabile attraverso internet, anche se un domani sarà fruibile e realizzabile anche attraverso altre piattaforme, poi magari ne parliamo un po' più nel dettaglio. C6 ha l'obiettivo di mettere insieme tre elementi che da soli si trovano già nel panorama, ma insieme no. Il primo, e direi più se vogliamo innovativo, è quello della diretta. Noi vogliamo essere sempre in diretta, e questo oggi è possibile da ogni luogo della città, nel nostro caso Milano, questo è il secondo elemento, il fatto di essere locali, grazie a strumenti come un cavo. Da qualsiasi computer connesso con una rete ADSL è possibile entrare in onda in diretta. Un telefono dotato di UMTS consente di entrare in onda in diretta, o quando parliamo di cose un po' più complesse, vogliamo un po' più qualità, attraverso una telecamera che è collegata a un computer, il quale a sua volta ha una di quelle schede HSPA che consentono di collegarsi in banda larga a distanza, un terzo modo per fare televisione. Quindi, il secondo, dicevo, quindi è quello del locale. E il terzo è quello del generato dagli utenti.